Perfetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Grazie, Emiliano, non si arrabbi. Rimonta come il Barcellona, Emiliano? Sì, sì. Io non so se rimonto, nel senso che non sto tanto indietro, Insomma, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, si mostra sicuro di sé Michele Emiliano, l'avete sentito, presidente della regione Puglia, ma soprattutto sfidante per le prossime primarie del Partito Democratico insieme a Renzi e Orlando. No, non ha bisogno, dice, di rimontare con il Barcellona ieri con quel risultato pazzesco in Champions League. Dice: non sono mica tanto lontano dagli altri sfidanti che sono appunto Orlando e Renzi. Abbiamo sentito nei giorni scorsi, proprio questa settimana, Orlando invece che in una radio cantava "Prendi questa mano zingara", e quindi proseguono, diciamo, le performance dei protagonisti delle primarie che ci saranno il 30 aprile. Parleremo però anche di molti altri temi, come sempre, con Effetto Notte. Ci occuperemo di questa doppia sentenza senza precedenti del Tribunale di Firenze, che ha riconosciuto delle adozioni vere e proprie, non si parla di stepchild adoption, a due coppie di padri gay. Ne parleremo con l'avvocata che ha seguito queste vicende e poi inevitabilmente parleremo anche di questa assurda tragedia che si è verificata sulla A14, sull'autostrada vicino ad Ancona, per il crollo di un ponte, di un cavalcavia sotto il quale passavano delle persone, delle macchine, come costantemente tutti i giorni succede, e c'è stato il crollo che ha provocato due morti. Ci collegheremo con il nostro inviato lì sulla A14. Per le vostre interazioni, come sempre lo sapete, qui Effetto Notte c'è la pagina Facebook del programma, pagina Facebook di Effetto Notte, oppure per WhatsApp ed SMS c'è sempre il solito numero, che è 349-238-6666, 349-238-6666. Ma prima di approfondire questi temi che vi anticipavo, lo sapete, vi racconto in breve la giornata. Tragedia in autostrada, crolla un ponte sulla 14 nelle Marche, due morti, erano in corso lavori di ampliamento del Rio, manda ispettori del Ministero. Doppia sentenza del Tribunale di Firenze, sia l'adozione per due coppie gay, la prima volta in Italia, la motivazione è nell'interesse dei bambini. Lotta alla povertà, il provvedimento è legge, introduce anche il reddito di inclusione per i nuclei familiari indigenti, stanziati 4 miliardi in due anni, soddisfatto Gentiloni che dice è un passo avanti importante. Unione Europea, Tusk confermato alla presidenza del Consiglio Europeo, per lui 27 sì e il solo no di Varsavia, dove il nuovo governo di destra blocca le conclusioni del vertice per protesta. L'8 marzo è passato, ma i femminicidi e i femminicidi non c'è fine. Tre nuovi casi nelle ultime ore. A Vicenza un uomo si è schiantato volontariamente contro un tir, uccidendo contemporaneamente la moglie in via di separazione e suicidandosi. Lei nell'ultima telefonata gridava "mi ammazza". Un'altra donna uccisa in Calabria, trovata sull'uscio della casa dove viveva da sola, e a Mantova una donna è gravissima dopo essere stata coltellata alla testa dall'ex. Stati Uniti, annuncio di Julian Assange, Wikileaks dice molte più informazioni di quelle già trapelate sul programma di cyberspionaggio della CIA. E sul bando per gli immigrati musulmani, gli stati di New York e Washington intendono presentare richiesta per bloccarlo. Siria, sono 400 i soldati americani arrivati negli ultimi giorni nel paese per sostenere l'offensiva delle forze locali contro Raqqa, roccaforte dell'ISIS. Roma, era Raffaele Marra a decidere gli organigrammi in Campidoglio. La conferma arriva dalle chat agli atti del processo per corruzione dell'ex capo del personale, che si trova tuttora detenuto in carcere. Torino, l'operaio licenziato dopo il trapianto. La multinazionale fa marcia indietro, il posto, dice, suo, deve esserci stato un errore. Scienza, a un passo dal genoma sintetico, viene dal lievito del pane, potrà servire per produrre biocarburanti e nuovi farmaci. Parliamo quindi da questa assurda tragedia avvenuta oggi sull'autostrada 14. Un ponte provvisorio in allestimento è crollato sulla 14 all'altezza di Camerano, nelle Marche. Le vittime rimaste schiacciate nella loro auto sono moglie e marito, feriti tre operai della Delabec che stavano realizzando i lavori. L'Autostrade per l'Italia spiega che il ponte provvisorio crollato era una struttura posta a sostegno del cavalcavia durante i lavori di costruzione della terza corsia autostradale. Poi ci collegheremo con il nostro inviato per meglio capire la dinamica, anche se insomma stanno cominciando a emergere delle responsabilità. E poi questa doppia sentenza del Tribunale di Firenze, riconosciute per la prima volta in Italia l'adozione per due coppie di padri omosessuali. Le decisioni sono state prese in entrambi i casi dal Tribunale per i minori di Firenze nell'interesse, scrivono i giudici, dei bambini. I primi sono due bambini adottati nel Regno Unito da due uomini italiani, le cui famiglie sono toscane ma da anni sono residenti all'estero. Il secondo caso riguarda un italiano e un americano che vivono a New York, dove hanno adottato una bimba che ora ha 2 anni e 9 mesi, alla quale viene riconosciuto lo status di figlia e la cittadinanza italiana. Le sentenze hanno subito provocato le reazioni politiche. Poi torneremo su questo tema, su questa doppia sentenza, tra poco con una giurista. Lotta alla povertà. È stata approvata la legge delega per il contrasto alla povertà, che introduce il cosiddetto reddito di inclusione per i nuclei familiari che avranno i requisiti per la legge. La misura di contrasto alla povertà, che dovrà essere unica a livello nazionale e condizionata al possesso di determinati requisiti, interesserà, secondo stime del governo, 400.000 nuclei familiari, pari a 1.077.000 persone, e dovrebbe poter garantire circa 500 euro al mese a famiglia coinvolta. Priorità verrà data ai nuclei familiari con minori e a quelli con ultra 55 anni senza occupazione. Il sostegno economico sarà legato a doppio filo con politiche attive per il lavoro. Potrà accedere al cosiddetto REI, infatti, chi aderisce a un progetto personalizzato di inclusione sociale e lavorativa. Sul tavolo ci sono 1 miliardo e 640 milioni di euro per il 2017 e 1,8 miliardi nel 2018. Soddisfatto il governo, di passo in avanti per venire incontro alle famiglie in difficoltà parla il presidente del Consiglio Gentiloni. Il REI, spiega il ministro del Lavoro Poletti, colma un vuoto annoso nel sistema italiano di protezione degli individui a basso reddito. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. La BCE, la Banca Centrale Europea, ha deciso di lasciare invariati i tassi di interesse nella zona euro. Il tasso principale rimane fermo al minimo storico dello 0%, quello sui depositi bancari a meno 0,4%. Confermata poi la riduzione per il quantitative easing, che dal mese prossimo passerà da 80 a 60 miliardi al mese. Il presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, è stato riconfermato per un altro mandato fino al 30 novembre 2019. Contraria alla sua elezione solo la Polonia. È un vertice di transizione quello che si svolge oggi e domani qui a Bruxelles. Di transizione perché lo sguardo è rivolto al 25 marzo, quando i Paesi membri torneranno a riunirsi a Roma per celebrare il 60° anniversario dell'Unione, con l'obiettivo di rilanciare il progetto di integrazione europea. Di transizione perché l'Unione sta aspettando la notifica ufficiale del desiderio del Regno Unito di lasciare il progetto comunitario, aprendo negoziati formali. I 28 tra oggi e domani parleranno della situazione economica, in leggero miglioramento, del libero commercio, in risposta ai segnali di protezionismo americano, e delle crescenti tensioni nei Balcani occidentali. All'inizio della riunione, questo pomeriggio, i 28 hanno confermato per altri 2 anni e mezzo Donald Tusk alla presidenza del Consiglio europeo. La conferma è giunta nonostante l'opposizione della Polonia, paese di provenienza dello stesso Tusk. Per ragioni di politica interna, il governo polacco, che ritiene Tusk un rivale politico, ha tentato di opporsi alla sua conferma. È stata una inutile e cocente sconfitta. Nessun altro paese membro si è opposto a un rinnovo del mandato dell'ex premier polacco. Beda Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bruxelles. Ora spostiamoci oltreoceano, negli Stati Uniti. Gli stati di New York e Washington intendono presentare alla giustizia americana una richiesta per bloccare il nuovo bando sugli ingressi di immigrati e rifugiati negli Stati Uniti. Il decreto, firmato dal presidente Donald Trump, il decreto bis, dovrebbe entrare in vigore il prossimo 16 marzo. Intanto arriva il nuovo annuncio di Julian Assange, fondatore di Wikileaks. Durante una conferenza stampa ha detto appunto che Wikileaks ha molte più informazioni di quelle già trapelate nei giorni scorsi sui programmi di cyberspionaggio della Cina. E poi la Siria, dove aumenta la presenza militare americana per cacciare l'ISIS da Raqqa. Altri 400 soldati americani si aggiungeranno ai 500 già presenti in Siria, con l'obiettivo di liberare in poche settimane Raqqa, capitale siriana dello Stato islamico. Si riflette quindi sul campo la maggiore combattività della nuova amministrazione Trump. Ad ingrossare le fila statunitensi saranno Rangers e Marines, che però non verranno schierati sulla linea del fronte, ha detto il portavoce dell'operazione, ma avranno compiti di supporto, addestramento e copertura degli alleati delle forze democratiche siriane, costituite da arabi siriani e curdi. Oltre a questa coalizione a guida americana contro l'ISIS in Siria, combattono, come noto, i russi, che supportano l'esercito governativo di Assad, e i turchi, che nel nord spalleggiano l'esercito libero siriano, formato da fuoriusciti dall'esercito di Damasco. Un groviglio per nulla armonioso, da cui è difficile immaginare come scaturirà la pace se e quando l'ISIS verrà sconfitto. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Restiamo sulle notizie dall'estero. È salito ad almeno 31 morti il bilancio ancora provvisorio dell'incendio scoppiato in un centro per ragazze minorenni vicino alla capitale del Guatemala. Il precedente bilancio era di 22, ora si parla di 31, ma durante la notte sono morte altre ragazze gravemente ustionate. Di nuovo in Italia con la strage senza fine delle donne per mano maschile, che riprende proprio all'indomani dell'8 marzo, di quello sciopero globale che c'è stato ieri, che tanti hanno contestato, che però in parte, almeno simbolicamente, ha lasciato il segno. E però, appunto, nelle ultime ore, 3 nuovi casi. Nell'ultima telefonata Vanna diceva: mi ammazza, questo vuole che ci ammazziamo. Per questa ragione la procura di Vicenza ha aperto e subito chiuso per morte del reo un fascicolo per omicidio volontario per un incidente stradale. Martedì scorso, vicino a Gambellara, provincia di Vicenza, era avvenuto quello che sembrava un normale scontro, un'utilitaria che sul rettilineo cambia improvvisamente traiettoria, schiantandosi contro un camion in arrivo dalla direzione opposta. Ma non un malore, una fatale distrazione. Secondo i magistrati, le indagini sul telefonino sono state determinanti. È stato un caso di omicidio-suicidio. In giornata anche la notizia dell'omicidio di un'altra donna, Cirò Marina, in Calabria, una quarantenne uccisa con un colpo alla testa sferrato da un corpo contundente. Ed è in gravissime condizioni Francesca, 33 anni, accoltellata alla testa dall'ex compagno e padre della loro bambina di 2 anni. È accaduto a Mantova proprio la sera dell'8 marzo. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore. A Roma, in Campidoglio, Raffaele Marra e Salvatore Romeo definivano in chat la macrostruttura comunale. Il quadro emerge dalle carte depositate dai magistrati per il processo per corruzione a Raffaele Marra e Sergio Scarpellini. Non sono un corruttore, si difende Marra, disse a Raggi che volevo andarmene. La macchina organizzativa del Comune di Roma dell'era Raggi si disegnava con gli sms inviati da Raffaele Marra, ex capo del personale, a Salvatore Romeo, ex capo segreteria della sindaca Pentastellata. Incarichi e retribuzioni suggeriti in chat anche prima dell'insediamento di Virginia Raggi in Campidoglio. Il quadro, già emerso nel corso delle indagini della Procura di Roma, è ora delineato nelle carte depositate dai magistrati per il processo per corruzione a Raffaele Marra e Sergio Scarpellini, processo che inizierà il 25 maggio. Raffaele Marra dava anche indicazioni da spin doctor per la campagna elettorale della candidata Pentastellata su come colpire l'avversario del PD Roberto Giachetti. La chat Marra Romeo, tutte cose già note, tutta fuffa, sentenzia il legale di Virginia Raggi Alessandro Mancori, che rende noto di aver sentito alcuni testimoni per la memoria destinata ai magistrati di Roma impegnati nell'inchiesta sulle nomine in Campidoglio, inchiesta che vede indagata la sindaca per falso e abuso di ufficio. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Poi su questo tema ci torniamo adesso invece da Roma a Torino, dove il presidente della regione Piemonte, Sergio Chiamparino, ha annunciato di aver ricevuto rassicurazioni da parte dei rappresentanti locali della multinazionale svizzera Oerlikon Graziano di Rivoli di voler ritirare il licenziamento di un operaio, di cui abbiamo parlato ieri, che aveva subito un trapianto di fegato ed era stato licenziato così su due piedi. Il caso ha provocato molte reazioni dei lavoratori che avevano scioperato per solidarietà. Adesso sembra che la multinazionale faccia un passo indietro. Una sentenza della Cassazione, anzi più che altro una trasmissione immediata, sono stati inoltrati dalla Cassazione alla Corte dell'Unione Europea di Lussemburgo i ricorsi di alcune ballerine del Teatro dell'Opera di Roma che sostengono di essere discriminate dalla legge che le manda in pensione a 47 anni, mentre consente ai colleghi uomini di rimanere in servizio sul palcoscenico fino a 52 anni. Secondo la Suprema Corte, le norme in questione, la legge di riordino dei lavoratori dello spettacolo del 2010, potrebbero violare il principio comunitario di non discriminazione in base al sesso. Per chiudere questa scoperta scientifica, si parla di un genoma sintetico. Siamo a un passo dalla costruzione del primo genoma sintetico progettato e costruito dagli esseri umani in base a un modello esistente in natura con ingredienti naturali assemblati con una speciale software. 9 articoli pubblicati su Science annunciano la costituzione di altri 5 cromosomi sintetici dal lievito del pane, che si aggiungono a quelli ottenuti nel 2014 e costituiscono oltre un terzo dei 16 cromosomi del DNA del lievito. Cosa servono? Vi chiederete, naturalmente potranno servire per produrre biocarburanti e nuovi farmaci. E con questa notizia direi che il riassunto della giornata è concluso. Tra poco, dopo la viabilità e gli aggiornamenti per chi viaggia, cominciamo ad approfondire i vari temi. I vostri messaggi possono continuare alla pagina Facebook di Effetto Notte, che è sempre lì per voi giorno e notte, oppure al 349-238-6666. A proposito di questo doppio riconoscimento da parte del Tribunale di Firenze di coppie gay, dell'adozione di coppie gay, lei. Monica scrive: la legge sulle unioni civili in Italia è incompleta perché non vi è un articolo che tuteli i figli nati all'interno delle coppie omogenitoriali, la famosa stepchild adoption, cancellata, dice, grazie alla coerenza di certi movimenti cialtroni. Per questo motivo la magistratura è costretta a intervenire per tutelare i nostri bambini, e per fortuna ci pensano loro. Poi ne parleremo tra i vari temi tra poco. Axerta indaga, documenta, accerta. www.axerta.it vi presenta Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Rieccoci insieme, quindi le notizie principali le avete sentite come sempre nel riassunto della giornata. Non perdete mai Effetto Notte se volete evitare di dire un giorno non lo sapevo. Ecco, puntualmente alle 21, adesso vi ricordo ogni pausa quali sono stati i fatti principali. Per i vostri messaggi, dicevo sempre, pagina Facebook di Effetto Notte oppure 349-238-6666. Tra poco ci collegheremo con le Marche, con il nostro Daniele Morini. Intanto continuano i vostri messaggi. Alberto scrive, per esempio, su questa doppia sentenza del Tribunale di Firenze, di cui parleremo più tardi, che ha riconosciuto l'adozione, vera e propria adozione, da parte di due coppie gay. Dice Alberto: io sono favorevole a qualsiasi legame purché non viziato dai rapporti di interesse o violenza, per cui ben venga se questo bambino lo faranno crescere bene in un ambiente positivo e propositivo. Allo stesso tempo però siamo al paradosso che se una coppia normale, tra virgolette, vuole sostegno sanitario ed economico da parte dello Stato per avere figli o anche adottarli, deve percorrere una via crucis, se non è giusto. Diciamo che ci sono vari paradossi che non sono colpa naturalmente dei bambini o dei genitori, di cui ci occuperemo più tardi. Adesso invece vi ricordo quali sono le notizie principali della giornata. A partire appunto da questa, sia l'adozione per due coppie gay, la prima volta in Italia, la decisione del Tribunale per i minori di Firenze, la CEI, la Conferenza Episcopale dei Vescovi, attacca. La lotta alla povertà è legge, approvata la legge per il contrasto alla povertà, che introduce anche il reddito di inclusione per i nuclei familiari indigenti. Crolla un ponte sulla A14 nelle Marche, morti moglie e marito, l'auto schiacciata, tre operai feriti, i lavori sotto accusa. Ce ne occuperemo tra pochissimo. E poi, per quanto riguarda il polacco Donald Tusk, è stato confermato per un altro mandato alla presidenza del Consiglio europeo. Roma, Marra, Raffaele Marra dice: mi ha voluto la Raggi, ma l'imprenditore Scarpellini lo inguaia. Si parla di alcuni sms, di una chat insomma tra i due, di cui ci occuperemo più tardi. E poi è passato l'8 marzo, ma non purtroppo i femminicidi, tre nuovi casi, ne abbiamo parlato, uno di questi di un uomo che si è schiantato volutamente con l'auto contro un tir con la moglie che si voleva separare a bordo, e si è capito che era stato un omicidio-suicidio per l'ultima telefonata di lei che ha gridato: mi ammazza, questo vuole che ci ammazziamo. E poi la notizia, scoperta scientifica, del primo genoma sintetico, si è a un passo proprio dalla sua costruzione, viene dal lievito del pane. Prima di iniziare ci è raggiunto una triste notizia per un crollo di un cavalcavia dell'autostrada 14 Teramo Ancona. Sono state coinvolte due autovetture, ci sono dei morti, dei feriti, e quindi io inviterei, per questa tragedia della strada e questo evento drammatico, un minuto di silenzio, un minuto di raccoglimento. Così ha detto il presidente Grasso, presidente del Senato, oggi in seduta appunto a Palazzo Madama, per questa tragedia che è avvenuta, questa tragedia sconcertante. Perché è sconcertante? Non solo naturalmente perché ha causato delle vittime in una situazione che fa parte della nostra quotidianità, quella di viaggiare lungo le autostrade, passare sotto dei cavalcavia, sotto dei ponti che già ci evocano, diciamo, tristi ricordi di lanci di mani assassine. Però insomma, uno pensava adesso di non rischiare anche che gli crollasse addirittura addosso tutto il cavalcavia, invece è successo. È crollato sulla A14 all'altezza di Camerano, provincia di Ancona, tra Loreto e Ancona Sud. È caduto questo cavalcavia su un'auto dove viaggiavano una coppia di persone, moglie e marito. Sono stati schiacciati, andavano a fare un controllo medico, e pensate cosa è successo. E poi ci sono tre operai feriti. C'è Francesca, per i vostri messaggi, pagina Facebook di Effetto Noto, il 349-238-6666, che giustamente dice: io sono passata da lì mezz'ora prima che crollasse, mi chiedo che cosa devo pensare, devo avere paura a uscire di casa, a mettermi in auto, adesso guardo con sospetto tutti i ponti. E ovviamente è una sensazione comprensibile, no? Ne parliamo con il nostro Daniele Marini, Morini, scusami Daniele, ecco. Inviato lì, ciao Daniele. La dinamica qual è stata esattamente? Adesso leggevo un comunicato di Autostrade per l'Italia che dice che ritiene opportuno precisare che quanto accaduto oggi sul cavalcavia dell'A14 all'altezza di Camerano è un tragico incidente non prevedibile determinato dal cedimento di pile provvisorie su lavori di innalzamento del cavalcavia necessari per ripristinare l'altezza dell'opera rispetto al nuovo livello del piano autostradale dopo l'allargamento dell'autostrada a tre corsie. Non si tratta, dice Autostrade per l'Italia, dunque del cedimento strutturale del cavalcavia, c'è piena sicurezza e stabilità strutturale dei cavalcavia della propria rete che sono costantemente monitorati e controllati. Da questa risposta, diciamo, a tutti i nostri timori, dopo che appunto due persone sono morte, e fra l'altro ci sono due precedenti recenti, il 28 ottobre 2016 il cedimento del cavalcavia Annone lungo la strada provinciale che collega Annone Brianza a Cesana Brianza in provincia di Lecco, e poi quello in Calabria che per fortuna non ha fatto vittime, mentre quello vicino Lecco un morto. Che cosa ci racconti quindi, Daniele, di quello che è avvenuto oggi? Sì, guarda, abbiamo lasciato da non molto quel tratto di autostrada, è veramente particolare l'impressione stando proprio lì accanto al cavalcavia, perché si nota veramente come non ci siano stati, appunto come confermava anche il comunicato di Autostrade per l'Italia, non ci siano stati dei cedimenti dovuti magari appunto a problemi, che ne so, di cemento, calcestruzzo o quant'altro, ma proprio si è letteralmente come dire strappato, no? questo viadotto intero, cioè è caduto sulla sede stradale che era praticamente integro, cioè i soccorritori ci passavano sopra come lo avrebbero attraversato se fosse stato a livello originario, no? Di fatto. Quindi è una sensazione anche molto particolare vedere che cosa era accaduto lì proprio in mezzo a un'autostrada dove chiunque, ognuno di noi poteva passare, certo. E passa continuamente, insomma ce ne saranno decine di migliaia probabilmente che attraversano le nostre strade. Appunto c'erano in corso da un po' di giorni, e questa mattina erano ad un punto di svolta, così insomma dalle ricostruzioni, i lavori di innalzamento di questa campata, di questo viadotto, proprio perché quel tratto di autostrada è interessato da molti anni da lavori per la terza corsia, quindi con una sede stradale che passa da 4 a 6 corsie, di fatto quindi allargamento di tutto il tratto della sede stradale, e in più appunto questa operazione di innalzamento del viadotto per portarlo al livello, no, del nuovo manto stradale. Che cosa poi sia successo nella realtà? Noi abbiamo visto con i nostri occhi gli agganci, no, ai due lati del viadotto, e la sensazione era proprio quella di uno strappo, no, come si può fare con un foglio di carta, strappare all'improvviso e collassare giù. C'erano appunto impalcature, opere provvisorie, che era quelle su cui lavoravano gli operai della ditta appaltatrice, accessorie come li hanno definiti oggi nei primi comunicati a cura proprio della ditta. C'era proprio questa mattina il direttore tecnico, il direttore dei lavori lì sul cantiere proprio, che stava guidando le operazioni. Quindi in queste ore abbiamo visto grande fermento da parte di tutti i tecnici, da quelli dei vigili del fuoco a quelli della società Autostrade, a quelle della stessa società che stava facendo i lavori, per capire, proprio sono stati per ore ad osservare i punti di giunto, gli agganci, e sembra appunto come scivolato giù avendo perso di fatto i sostegni. Purtroppo io credo che, cioè, le vittime ci sono state due, come ricordavi, marito e moglie, 60 lui, 54 anni lei, ma credo anche che poteva andare molto peggio, insomma, basti pensare se fosse transitato un autobus, un pullman, un mezzo, insomma, pesante che avrebbe magari potuto anche fare altre certo. una carambola di autovetture, cioè è andata male perché è stata una tragedia, ma poteva andare molto peggio, ahimè. Tu dici appunto se fosse passato un mezzo pesante, tra l'altro un ascoltatore ricorda, dice, per quanto riguarda i ponti magari non è il caso di questo, ma non si dovrebbero far passare mezzi che superano i 440 tonnellate, cosa che era successa invece per il cedimento del cavalcavia di Annone in Brianza, no? Vicino Lecco, era successo proprio per un tir di peso eccessivo che ha fatto crollare la struttura. In questo caso appunto, Daniele, dice un ascoltatore, Walter, crollano i cavalcavia sulla 14, prima sulla 36, tre viadotti già venuti giù in Sicilia, i condomini a Roma, frane dappertutto, manca solo un altro vaiont, dice, della serie Italia Got Down, per fare insomma un gioco di parole, una parafrasi. Comunque Daniele, adesso è chiusa l'autostrada, nel senso il sindaco di Castelfidardo oggi aveva detto, visto una sua dichiarazione in agenzia, è sorprendente che fosse aperto quel tratto di autostrada mentre si facevano questi lavori. Però sì, diciamo che in quel tratto, come ti dicevo, sono anni che c'è questo ampliamento da 4 a 6 corsie. Il viadotto era chiuso nella parte sopra, nel senso non c'era transito di mezzi appunto in queste ore di sollevamento, ma naturalmente l'autostrada sotto era aperta. Ora resterà chiusa per molto, perché accanto al capire come poteva essersi verificata questa tragedia, tutto il pomeriggio di oggi è trascorso nel capire anche come adesso togliere un viadotto che chiaramente vengono posati interi, no? Con una campata che viene posata intera, però poi vengono fatte opere ulteriori che lo appesantiscono, dalle asfaltature ai drenaggi, ai parapetti, insomma, e quindi stavano arrivando mezzi pesanti fino a pochi minuti fa, autogru, anche altri tipi di mezzi, insomma, da cantiere, per probabilmente iniziare a smontarlo e poi sollevarlo comunque quasi integro per toglierlo dall'autostrada. Ci vorranno molte ore, ahimè, credo che la 14 resti chiusa ancora per molto, insomma. Già. Questo, grandi disagi e poi veramente lo sconcerto per questi morti. Grazie Daniele Morini, grazie sempre, grazie, per il tuo lavoro serata. Prezioso. Ciao. Adesso ci fermiamo, ci prendiamo la solita pausa brevemente qui e poi cambiamo tema. Tra poco voi continuate con le vostre osservazioni, i vostri commenti, pagina Facebook di Effetto Notte, alla quale potete aderire senza indugio, oppure anche il numero per SMS e WhatsApp, che è il 349-238-6666. Vedo molti messaggi anche sia sul cavalcavia sia sulle le sentenze, la doppia sentenza di cui parleremo tra pochissimo. E poi c'è, per esempio, questo ascoltatore riguardo al cavalcavia, io sono questa è quella di prima, che appunto raccontava che per un pelo insomma non è rimasta vittima anche lei. A tra pochissimo. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte, siete al posto giusto, nel momento giusto, anche con la giusta conduttrice con voi, Roberta Giordano. Riprendiamo allora con i temi. Abbiamo parlato fino a poco fa, oltre a ricordarvi ogni tot le notizie più importanti, abbiamo parlato di questa tragedia che si è consumata oggi sull'autostrada 14 vicino Ancona Sud, con questo ponte crollato sull'autostrada che ha schiacciato un'auto in cui viaggiava una coppia, moglie e marito, che andavano a fare un controllo medico e sono rimasti feriti tre operai. Abbiamo capito dal nostro inviato che insomma, la dinamica è ancora tutta da chiarire. Autostrade, dicevo poco fa, anche rispondendo a un ascoltatore adesso, vi ricordo i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte, oppure al 349-238-6666, dove potete inviare SMS e WhatsApp. Dice questo ascoltatore, viadotto crollato, un evento non prevedibile, un errore umano, e adesso per rimuoverlo e la viabilità. Già rispondeva in parte prima il nostro inviato Daniele Morini, dicendo appunto che per molto adesso resterà chiuso quel tratto della 14, creando naturalmente notevoli disagi, e che Autostrade per l'Italia, in questa nota che leggevo poco fa, dice appunto che ritiene opportuno precisare quanto è accaduto: è un tragico incidente non prevedibile, determinato dal cedimento di pile provvisorie sui lavori di innalzamento del cavalcavia che si era reso necessario questo lavoro per ripristinare l'altezza dell'opera rispetto al nuovo livello del piano autostradale dopo l'allargamento alla terza corsia. Non si tratta, dice Autostrade per l'Italia, dunque del cedimento strutturale del cavalcavia, e vuole rassicurare dicendo che c'è piena sicurezza e stabilità strutturale dei cavalcavia della propria rete autostradale, che sono costantemente monitorati e controllati, perché in tanti oggi si saranno chiesti: è possibile che si rischia, passando così in autostrada, di rimanere schiacciati sotto un cavalcavia? Comunque, adesso cambiamo argomento. Vi ricordo velocemente quali sono le notizie più importanti della giornata. Per l'appunto, questa tragedia in autostrada con il crollo di questo ponte sulla 14 nelle Marche, due i morti, erano in corso lavori di ampliamento del Rio, manda gli ispettori del Ministero. Doppia sentenza del Tribunale di Firenze, sia l'adozione per due coppie gay, prima volta in Italia, ne parleremo tra pochissimo, e poi lotta alla povertà, il provvedimento e legge introduce anche il reddito di inclusione per i nuclei familiari indigenti. Unione Europea, Tusk confermato alla Presidenza del Consiglio Europeo. L'8 marzo che è passato, ma ai femminicidi non c'è fine, con questi tre nuovi casi nelle ultime ore. A Vicenza, un uomo che si è schiantato volontariamente contro un tir, uccidendo contemporaneamente la moglie che era in via di separazione e suicidandosi. Lei nell'ultima telefonata ha gridato "mi ammazza". Un'altra donna uccisa in Calabria, trovata sull'uscio della casa dove viveva da sola. E a Mantova una donna è gravissima dopo essere stata accoltellata alla testa dall'ex marito. E poi in Siria sono 400 i soldati americani arrivati negli ultimi giorni nel paese per sostenere l'offensiva delle forze locali contro Raqqa, roccaforte dell'ISIS. E per l'Europa League vi aggiorno sul risultato al momento tra Lione e Roma 1-1. Ecco, adesso la Roma ha fatto il secondo gol proprio in questo istante, mentre vi aggiornavo saranno contenti i romanisti, quindi Lione-Roma 1-2 per il momento. Adesso parliamo di altre cose, parliamo di questa doppia sentenza senza precedenti del Tribunale di Firenze, che ha riconosciuto, la prima sentenza era arrivata in giornata, un'altra, l'ultima è arrivata due ore fa, le prime adozioni in Italia per due coppie gay maschili, adozioni vere e proprie. La prima riguarda due fratellini che sono stati adottati da due uomini che sono cittadini italiani ma vivono da tempo nel Regno Unito, e due ore fa un'altra sentenza del Tribunale di Firenze che ha riconosciuto l'adozione di una bambina a una coppia formata da un italiano e da un americano, e viene riconosciuta quindi lo status di figlia ma anche la cittadinanza italiana. Ne parliamo con l'avvocata Susanna Lollini, avvocata di Rete Lanford e dell'Associazione Famiglie Arcobaleno. Buonasera, avvocata Lollini. Buonasera. Che ha seguito il primo caso, no? Sì. Ecco, sì. In questo caso però spieghiamo subito, perché vedo dei messaggi di chi probabilmente appunto non ha chiaro. Qualcuno dice: ma non era la sentenza di Trento? No, quella era una sentenza che riguardava un'altra cosa, una coppia di uomini, uno dei quali insomma tutti e due avevano, diciamo così, erano ricorsi alla maternità surrogata, quindi a una donna fuori dalla coppia con gli spermatozoi di uno dei due, quindi biologicamente era figlio di uno dei due e l'altro ha avuto la possibilità di adottare il figlio del partner. Questa sarebbe la stepchild adoption, che però in Italia non è proprio così, era la trascrizione di un certificato, il riconoscimento di una sentenza, ma che porta all'indicazione sul certificato di nascita di questi bambini di due padri. Quindi infatti è Corte d'Appello di Trento, perché è il riconoscimento di una sentenza straniera, perché questi bambini sono stranieri, se sono nati negli Stati Uniti o in Canada sono anche cittadini stranieri. In questo caso quindi proprio... diciamo invece che queste due coppie di cui parliamo adesso hanno fatto una vera e propria adozione, cioè un bambino, due bambini, una e una bambina, l'altra che non sono figli loro. È un'adozione, no, sono bambini, senso è una vera adozione piena, nel senso che si tratta di bambini che sono in un istituto perché sono bambini in stato di abbandono. Però non è corretto dare un'informazione dicendo è la prima adozione alle coppie gay, perché questo fa pensare che adesso in Italia le coppie gay possono, o le coppie lesbiche possano adottare, avere un'adozione piena, cioè di bambini, non del bambino, del figlio della propria compagna, della propria convivente, del proprio punita civilmente, quindi biologicamente di uno dei due, ma bambini che, con cui non hanno nessun rapporto biologico. Questa sentenza riguarda un caso molto specifico, molto particolare, ed è quello di cittadini italiani, come ha detto giustamente lei all'inizio, che vivono stabilmente all'estero e che l'adozione l'hanno fatta all'estero in virtù della legge nazionale del paese in cui vivono, quindi non in base alla nostra legge sulle adozioni, in base alla legge sull'adozione che vige nel paese in cui vivono e di cui chiedono la trascrizione in Italia. Trascrizione che è possibile in virtù di una norma della nostra legge sulle adozioni, questo sì, l'articolo 36, che al comma 4 prevede una deroga, perché fermo restando il principio generale per cui le coppie in Italia possono adottare solo se sposate da più di 3 anni, quindi non possono adottare i single, non possono adottare le coppie conviventi, non possono adottare le coppie dello stesso sesso anche se unite civilmente, perché la condizione per poter fare un'adozione piena, nazionale o internazionale che sia, è che siano sposati da almeno 3 anni. L'unica deroga è questa, cioè per gli adulti che adottino dei bambini, poiché vivono da più di 2 anni, da almeno 2 anni, dice la legge, all'estero, allora in quel caso, in via eccezionale, è veramente una deroga, è considerata una vera e propria deroga, allora la sentenza può essere riconosciuta anche in Italia, sotto il controllo, perché la competenza è del Tribunale dei Minori di Firenze, le sentenze sono del Tribunale dei Minori, non del Tribunale Ordinario, allora in questo caso si può derogare in via eccezionale alla condizione che vuole la coppia adottiva coniugata. Avvocata Lollini, leggo qualche messaggio, per esempio Fabio che dice: ovvio, mi pare, cosa avrebbero dovuto fare i giudici, togliere i bambini ai genitori. Poi Michele dice che in questo paese la magistratura porre rimedi civili verso una classe politica genuflessa, bigotti clericali, ora di slegare per sempre la Repubblica Italiana da questi elementi. Mentre Giorgio dice: se una cosa che è legale all'estero, due maschi che adottano si dichiarano padri, diventa legale anche in Italia, perché è una cosa che è reato in Italia comprare i bambini, dice, non rimane reato in Italia anche se commesso fuori? Queste sono risposte che richiederebbero un paio di ore di chiarimenti sul diritto. Però mi dica una cosa, avvocata Lollini. C'era anche qualcuno che esprimeva semplicemente questo dubbio, no? Dicendo: ma alla fine, con il fatto che ci sono queste deroghe per cui delle sentenze, dei riconoscimenti che vengono tenuti all'estero poi vengono ratificati in Italia, allora in questo modo non si discriminano le coppie gay italiane, per esempio, che qui in Italia vivono e qui in Italia. Certo, io sono assolutamente d'accordo, però il problema è che non è cambiata il fatto di riconoscere gli effetti di una sentenza straniera anche in Italia a due genitori che però continuano a vivere nel Regno Unito, non vivono in Italia. La trascrizione della sentenza consente che questi bambini abbiano dei nonni, e se i genitori vengono con questi due bambini in Italia a far visita ai nonni, a passare qui le vacanze, questi bambini hanno due genitori anche se sono entrati in Italia, perché se la sentenza non viene sentenza emessa dalla Corte del Regno Unito non viene trascritta in Italia perché non viene riconosciuta, appena questi bambini vengono in Italia con i loro genitori adottivi, che sono genitori a tutti gli effetti, sono genitori adottivi, non ce li hanno più, sono improvvisamente, in virtù di una cosa legale, sono di nuovo bambini abbandonati, perché se quella sentenza non viene riconosciuta, il loro legame con queste figure di adulti non è riconosciuta, non esiste, perché è soltanto lo Stato italiano che può riconoscere questo vincolo. Fintanto che non lo fa, quella sentenza vale nel Regno Unito, ma non vale in Italia. I nonni che valgono per il Regno Unito, anche se sono italiani, non sono nonni. Non ci sono cugini, non ci sono zii, quindi non è una cosa. Naturalmente, però, questo non cambia la legge italiana. La trascrizione di una sentenza consente che quella sentenza produca quegli effetti, ma non rende possibile adottare questa coppia se stesse in Italia, non potrebbe. Avvocata, non la sento più. Mi senti? Dicevo che questa coppia, se stesse in Italia, non potrebbe adottare questi due bambini. Non li avrebbe potuti adottare. Allora, sa che naturalmente si sono scatenate le polemiche politiche tra sostenitori e detrattori. I sostenitori dicono la vita reale e i giudici sono più avanti della politica, i detrattori invece parlano di una sentenza creativa che straccia completamente la Costituzione. Chi sta in mezzo dice comunque va riempito, dice, chi sta in mezzo, un vuoto normativo. Ecco, questa mi sembra la cosa più giusta, assolutamente. Bisogna in qualche modo affrontare il problema dell'adozione, non vedo come altro, al di là del fatto che non c'è nessuno stracciamento di Costituzione, perché non c'è nessun principio costituzionale che impedisca

se no da parte dei Stati membri, prevedendo anche, per esempio, che ci siano non la doppia velocità, come qualcuno l'ha chiamata, ma delle scelte da parte di alcuni paesi, come il nostro, che vogliono rafforzare più velocemente l'integrazione europea, che si possa andare anche con diverse responsabilità nell'integrazione. I giovani Erasmus possono essere i più forti alleati per un'Europa migliore? La generazione Erasmus è la generazione, come si è visto da tante ricerche, ma anche dall'esperienza diretta, più naturalmente alleata con chi vuole più Europa, ma un'Europa anche più giusta, un'Europa delle opportunità, un'Europa che non discrimini. Credo che siano i veri, naturali alleati per un futuro dell'Europa che, vista come il comune destino, ma come anche uno spazio di pace, di libertà, di democrazia, di cittadinanza attiva. Per questo proponiamo che sia decuplicati le risorse per Erasmus, ma soprattutto chiediamo che l'Europa della cultura e dell'educazione siano molto più centrali nelle priorità della Commissione Juncker e nei nuovi trattati, ma soprattutto anche nella dichiarazione di Roma del 25 marzo. U-Zone, incontro con gli europarlamentari. In collaborazione con Euronet Plus. Quando l'abbiamo conosciuto a me è sembrato una persona estremamente competente, del resto anche il suo curriculum parlava chiaro. Poi se qualcuno mi vuole affibbiare delle doti di preveggenza, che lo dico onestamente non ho, purtroppo mi dispiace, ho fatto un errore di valutazione, no? E quindi insomma io ho preso le distanze, adesso stiamo ripartendo, certo, nel frattempo insomma è cresciuto un po' di pelo sullo stomaco, la corazza ha messo qualche scaglia in più e andiamo avanti. Ho fatto un errore di valutazione, ma adesso ho preso le distanze. Sta parlando di Raffaele Marra, Virginia Raggi, alla radio che si chiama Radio Radio, perché oggi tra l'altro arriva la conferma del fatto che Raffaele Marra fosse lui a decidere gli organigrammi in Campidoglio dagli atti del processo, questa chat che ha gli atti del processo per corruzione dell'ex capo del personale del Campidoglio, appunto Raffaele Marra. Ma ne parliamo con Ivan Cimarrusti. Caro Ivan, buonasera. Buonasera. Quindi quali sono gli aggiornamenti sulla vicenda di Raffaele Marra, che ricordiamo è ancora in carcere per l'inchiesta sulla corruzione e poi invece è indagato insieme a Virginia Raggi per abuso d'ufficio, no? Esattamente. Oggi la Procura di Roma ha depositato le carte giudiziarie del procedimento, appunto, come giustamente dicevi, in cui Marra è indagato, anzi è imputato perché è stato rinviato a giudizio, va a giudizio immediato il 25 maggio prossimo, assieme all'imprenditore Scarpellini, da cui avrebbe ottenuto una tangente da 367.000 euro. Le dichiarazioni della Raggi di oggi sono interessanti, perché la Raggi giustamente prende le distanze da quello che è l'ombra nera, diciamo, del Campidoglio, o almeno lo è stato, però gli atti giudiziari depositati oggi dimostrano insomma che la Raggi si era affidata in tutto e per tutto a questo personaggio, a questo soggetto che insomma ha con una pesante accusa di corruzione, addirittura ha riorganizzato la macrostruttura del Comune di Roma. La macrostruttura sarebbe un restyling dell'organigramma dirigenziale, ma non soltanto, perché Raffaele Marra è anche quello che poi materialmente ha fatto i contratti a Salvatore Romeo, l'ex capo segreteria della Raggi, contratto finito sotto inchiesta dalla Procura di Roma per un'irregolare applicazione del TUEL, il testo unico degli enti locali. Insomma, gli atti giudiziari depositati oggi aprono insomma parecchi interrogativi e sollevano numerose ombre sul periodo in cui si è formata, diciamo, la giunta Raggi, a cavallo tra la primavera e l'estate, quando ci furono le elezioni, ecco. Ivan Cimarrusti, ti ringrazio di questa sintesi. Adesso vedremo appunto quando ci sarà il giudizio abbreviato per quanto riguarda appunto l'accusa di corruzione e poi come prosegue invece questa indagine per abuso d'ufficio. Grazie Ivan. Grazie a voi. Buona serata. Leggo per chiudere questo messaggio di Gabriele Betti, dice: giornalista sul posto a proposito del crollo del cavalcavia, dice: faccio quella A14 sempre e i piloni sono fradici. Hanno risparmiato, dice lui, guardate le immagini Google e li vedete dal vostro tavolo. Adesso naturalmente questa è un'osservazione di Gabriele che ci scrive, vedremo come verrà ricostruita questa dinamica, comunque di un fatto gravissimo che non deve succedere, che dobbiamo avere paura di passare sotto un cavalcavia perché questo crolla. Ci risentiamo, ci aggiorniamo brevemente come sempre alle 22.00.